nella ultima Mishnah del settimo capitolo, che è Mishnah Hei, la quinta Mishnah, si descrivono le vesti del Kohen Gadol e del Kohen regolare, Kohen normale. Tenete presente il testo della Mishnah e, girando la pagina due volte, avete anche una figura, un'immagine che descrive queste vesti. Allora, tenete presente questa cosa, così magari cambieremo un attimo, leggeremo il testo e un attimo guarderemo l'immagine. Il testo dice così: Kohen Gadol, il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, Meshamesh Bishmone Kelim, Bishmona Kelim, serve, effettua il suo servizio, vestito con otto indumenti. Si può usare anche il termine Kelim. Veha Hediot, mentre invece il Kohen Hediot, Hediot vuol dire il Kohen normale, il Kohen, non il Kohen Gadol, non il sommo sacerdote, fa la sua funzione Be Arba'a, veste quattro vesti. Non è quella pagina, prima. Ecco. Quali sono le Arba'a? Prima iniziamo a dire quali sono le quattro vesti che vestono tutti i Kohanim. I Kohanim regolari vestono questi quattro, anche il Kohen Gadol le veste, solo che lui ne ha quattro in più. Allora iniziamo con le quattro che sono di base e descriviamo. La prima cosa è Bi Ketonet. Ketonet è una sorta di tunica, è una tunica. Riconosciamo la parola Ketonet dalla parasha di Vayeshev, di Vayeshev, nella quale si parla della tunica che Yaakov diede a Yosef, Ketonet Passim. Allora, Ketonet ube Michnasaim. Michnasaim sono dei pantaloni che sono abbastanza corti, arrivano un po' dopo dei pantaloncini che sono, diciamo, a mo' di mutande, diciamo così, che vanno sulla pelle e coprono fino a dopo le ginocchia, quindi nell'immagine non si vedono, perché l'immagine dimostra il Kohen già vestito. Questi sono i Michnasaim. Poi c'è Be Mitznefet. Mitznefet è il copricapo, un particolare tipo di cappello, ma non è proprio un cappello, è più un turbante, perché è formato da una lunga fascia che poi si arrotola. Ube Avnet. Avnet è la quarta di queste quattro cose, cioè la cinta. Questo per quanto riguarda il Kohen normale. Tutte queste vesti erano fatte da lino bianco, ok? Il copricapo in teoria era uguale, anche se si descrive in altre fonti che era formato in maniera diversa per il Kohen Gadol o per i Kohanim normali, che per loro arrivava più in alto, più a forma conica, diciamo, mentre per il Kohen Gadol era più a forma tonda. Però era la stessa, lo stesso materiale, eccetera. Questo per ciò che riguarda appunto i Kohanim normali. Poi, Mosif Alav Kohen Gadol, per ciò che riguarda il Kohen Gadol, si aggiungono le seguenti quattro cose, i seguenti quattro elementi. E questi si chiamano Big Day Zahav. Quando noi abbiamo detto che il Kohen Gadol effettua la sua funzione vestito con le Big Day Zahav, con cioè le vesti d'oro, è un riferimento a queste quattro in più. Cosa sono? Non ognuna di queste cose è un indumento vero e proprio, per questo abbiamo usato anche il termine kelim, anche se in alcuni contesti si può usare il termine kelim per dire proprio vestiti. Però kelim normalmente vuol dire utensili o o recipienti, però può avere anche altri significati in Quindi altri hai quattro contesti. in lino e quattro d'oro suoi Quattro specifici, d'oro, che però vediamo cosa sono i sono. suoi. Sì. Si chiamano le vesti d'oro, ma non è che sono fatte tutte d'oro. Vediamo. Quali sono? La prima cosa è Hoshen. Hoshen cos'è? Il pettorale. Se voi guardate l'immagine, vedete il pettorale che, sul quale sono incastonate le 12 pietre, ognuna diversa, ognuna corrisponde ad un'altra tribù e i nomi delle tribù sono incisi in ognuna delle 12 pietre. E il pettorale stesso è tessuto da 5 tipi di filo, da 5 fili, 5 sorta di fili, che sono un filo oro e poi lana di colore turchese, rosso e scarlatta, verde e no, non verde, scusate, lino. C'è lana, lino e oro, in cinque forme, quindi Ah, oro, lino e tre colori di lana. Questi sono i cinque. E la Torah descrive esattamente nella Parashat di Tetzaveh come dovrà essere fatto. E il Kohen Gadol aveva l'obbligo di vestire questo, mentre faceva la funzione del Kohen Gadol. E questa è la prima delle quattro. La seconda è Efod. Efod si può tradurre con un tipo di sopraveste. Come possiamo immaginare una cosa che si veste sopra le vesti grembiule. per cucinare? Un tipo di grembiule, un tipo di spolverino che non ha maniche, come vedete Un nell'immagine. gilet, una scamicia. Non è proprio un gilet. Abbiamo 10 nomi. Va bene, abbiamo molti sinonimi che possiamo usare. L'importante è vedere nell'immagine cosa si intende, perché questo grembiule, come lo vedete, che viene giù fino verso le ginocchia del Kohen Gadol davanti, sopra la tunica, ma anche dietro arriva allo stesso livello. Quindi è come un lungo rettangolare, in mezzo c'è un buco per la testa e sì, diciamo simile a quello che oggi abbiamo il Talet Katan, se Due, vogliamo. c'è, Ok? solo che Tanto non per fare c'è. l'esempio, che se non è questo. E questo anche era tessuto dagli stessi cinque elementi di cui era tessuto l'efod, il pettorale. Come? Faccio la domanda dopo. Ok, scusate, ho fatto un po' di confusione. Il Ketonet, scusatemi, è sotto questo tipo Talet Katan. Quello Sì, è il Me'il, si chiama, che adesso diremo Me'il, che è fatto solo di lana turchese, di Me'il lana azzurra. Tehelet. Me'il Tehelet, bravissimo. Allora, il secondo indumento, mi sono perso. Il secondo, È riassumendo, il Efod, sì, giusto, che non è lo scamiciato tipo del Catan. che non è lo scamiciato, è invece proprio un tipo di grembiule molto più Quello piccolo, che qui si che è vede sotto il pettorale. Il pettorale è appoggiato sopra a questo coso. il efod. Sì. Vedete il quadrato del Sì, pettorale? c'è una È fascia lì, appoggiato a tipo la tipo una fascia, fascia. tipo, ah, è quella Una fascia lì. fascia Eccola tipo grembiule che va davanti qua, e sotto il insieme al tettone, pettorale. eccola qua. Dietro invece copre tutta la schiena e viene È la sulle fascia, spalle. è Vedete la sulle fascia. spalle che Sì, viene sì, su? sì. Questo è l'efod. Scusatemi la No, confusione. no, una spalliera, diciamo. Un tipo di spalliera che Fascia viene che... davanti e copre tutta la schiena fino a sopra le spalle. Questo è l'efod. Quelle pietre sono messe sulla cintura, è una No, cintura no. grande. È una Allora, piastra. quella cintura grande è l'efod, che è legato a quello che viene da sopra le spalle e va sotto la Questa schiena. qui. Va a coprire la schiena. Che passa dietro la schiena e viene qua. Sopra Sì, e questa. Sopra. la cintura dov'è la cintura? No, Metti gli occhiali la qua. cintura è sotto. La No, sì, cintura ma non si vede qui, da perché qui. è Sì, allora non coperta. si vede, è ricoperta. Sì, perché la cintura ce l'avevano tutti i coni, no? Ah. Qui non si vede. La fascia è larga, alta. Quella fascia alta sopra di quella è l'efod, quel tipo di grembiule, e sopra l'efod c'è il pettorale, che è quella quell'elemento quadrato. Tutto quello. Sì, quello è tutto collegato. Me'il, appunto, questo è quella tunica di cui dicevo rettangolare, che era solo di lana azzurra, e in basso alla tunica, a questo me'il, Questo è lo c'erano. scamiciato tipo Daniel Catan. Esattamente, lo scamiciato. C'erano in basso delle. Clochette. Come si chiama? Campanelline, Il clochette. Campanelline. campanelline, Giusto, perfetto. clochette. Paamonza Haverimon, Paamonza Haverimon. C'erano dei campanellini e delle forme piccole di melagrana e facevano rumore mentre il Kohen Gadol si avviava da un posto all'altro, si sentiva che stava per arrivare. E il quarto elemento specifico del Kohen Gadol è Vatzitz. Tzitz è il diadema, cioè una sorta di corona, una piastra d'oro che C'era la scritta. era posta sulla fronte del Kohen Gadol, come vedete nella immagine, e con dei fili di lana si legava appunto a quella posizione. Era E sopra la Mitzneve, sì, poggiata sulla la fine corona. del Mitznefe, cioè del turbante, e sopra e sulla su questa piastra d'oro, sul diadema, c'era scritto Kodesh LaShem, santo per Hashem, sacro per il Signore. Scusa, Tutto questo è descritto nella Torah. Sì? quando si vestiva c'era anche un ordine in quale si doveva vestire o poteva vestire Sì, come voleva certo che lui? c'era un ordine. Sì. È per prima Forza. metti quello, poi quello, poi quello. È normale, non fa Sì. mettere. No, poi rimetti prima il turbante e poi la tunica. Proseguiamo. La Mishnah dice, come tra parentesi, perché non è legato strettamente a Kippur, quello che adesso diremo, visto che parliamo delle vesti, specifichiamo inoltre che Be'eilu nishalim be'urim vetumim. Solamente quando il Kohen Gadol è vestito con tutte queste vesti, si può domandare, fare domanda agli Urim Vetumim. Cosa sono Urim Vetumim? Urim Vetumim è la seguente cosa. All'interno del pettorale, il pettorale, noi lo vediamo qui dove sono incastonate le pietre, come un quadrato, vero? Oh, però in realtà il pettorale qui è piegato quando lo si mette sul petto, ma in realtà è un rettangolare. La larghezza è quella, ma la lunghezza è doppia. E veniva piegato per arrivare appunto ad essere come un quadrato. All'interno di questa piega c'era una pergamena con il nome di Hashem e questo si chiamava Urim Vetumim. Urim Vetumim voleva dire che questa cosa, e quando c'erano le condizioni spirituali e pure idonee, e di purezza idonee, quello che accadeva è che era una sorta di profezia o una sorta di spirito divino che poteva esprimersi in una certa maniera, cioè che si potevano porre delle domande, ora vedremo che tipo di domande, non come ha giocato la Roma o cose simili, o che tempo farà domani. Ah, si illuminavano quelli. Si Se illuminavano, ho la notizia del capretto, com'è andata. ci sono diverse opinioni di quale era esattamente il modo. Diciamo, il modo tradizionale è che si dice è che si illuminavano le lettere incise nelle pietre che erano incastonate sul pettorale per dare la risposta. Cioè, domande di che tipo? Domande tipo se dobbiamo andare in guerra, domande che riguardano tutto il popolo ebraico a livello nazionale. Se non si riusciva ad arrivare a una conclusione con il Sanedrin, con tutto quello che era il sistema, si poteva porre la domanda con l'Urim e Tumim. Il Kohen Gadol doveva stare in un determinato luogo, in determinata posizione, eccetera, e guardava le lettere che se era la risposta positiva, allora si illuminavano le lettere Hen, sì, la Hei e la Nun, per dare questa risposta. Ok? Oppure Lo. La lame della Aleph, che era negativa la risposta, e così via. Questo era Urim Vetumim, che questa cosa non c'era nel secondo tempio. solamente dai giorni di Mosè fino ai giorni del primo tempio. Dopo era stato nascosto, è stato perso e non c'è più stata questa cosa, però sono sempre validi gli 8 indumenti anche nel secondo tempio. Se il Kohen Gadol doveva fare la sua funzione, non la poteva fare senza essere vestito con questi 8 indumenti barra elementi. Quello che valeva solo fino al primo tempio è la vestizione, non è il discorso delle domande? No. Le vesti sono sempre valide. Bene. E il Kohen Gadol non può fare la sua funzione senza tutte e 8 questi elementi. Quello che c'era solo fino a un certo periodo era l'Urim Vetumim, cioè questa possibilità che era legata a quella pergamena, ma che era legata soprattutto a livello spirituale del popolo anche, non solo del Kohen Gadol. Era il tramite di una risposta dall'alto. Come? Era il tramite di una risposta dall'alto attraverso l'illuminazione delle lettere, data la condizione spirituale. Esatto, lui doveva porsi davanti all'Arona Kodesh, verso l'Arona Kodesh, e chi chiedeva doveva stare dietro di lui, chi chiedeva non vedeva il pettorale. Ma non era lui che chiedeva? No. No? Chiedevano a lui. Diciamo che il re, per esempio, chiedeva. O un altro solo importante. Qualcuno aveva titolo di chiedere, non è che potesse chiedere uno. Adesso vedremo chi, un attimo solo. E la persona chiedeva: dovrei fare la seguente cosa, questa determinata cosa o non fare? E non chiedeva alta voce, perché non è che chiedeva ad una persona, certo. No? Chiedeva in una bassa voce, come uno che sta pregando tra sé e sé. E il Ruach HaKodesh, cioè uno spirito di santità, che è un livello inferiore rispetto alla profezia vera e propria, ok? Investiva, diciamo, il Kohen Gadol, questa illuminazione, questa ispirazione, e vedeva le lettere che venivano, diciamo così, illuminate oppure sottolineate in qualche maniera, no? Fai questo, non fare questo, eccetera. Ok? Ma era un codice, la faccenda delle... No. Le lettere, in realtà... Scusa, concludo. Le lettere non è che si illuminavano in una sequenza, ecco, non è che si illuminavano in una sequenza, come dire, sì, fallo, allora c'era la S, la I, la F, la, per dire l'esempio. No, c'è un'interpretazione. Si illuminavano tutti insieme le lettere, e il Kohen Gadol, lo stesso spirito di ispirazione divina, gli dava la chiave per il codice, tra virgolette, per capire quale era la risposta effettivamente. Ora, sul pettorale non c'erano tutte, cioè sui nomi delle tribù non ci sono tutte le lettere dell'alefbet, mancano alcune lettere, ma c'erano altre incisioni sul pettorale, perché c'era anche scritto Shivtei Yudkei, le tribù di Hashem, e c'erano anche scritti i nomi Abraham, Yitzhak e Yaakov. Dove questo era scritto? Sul pettorale. E su questo, con questi c'erano tutte le lettere dell'alefbet. E quindi dipendeva anche dal livello spirituale, come dicevo, del Kohen Gadol, anche come diceva Alberto, perché se lui non era a livello di poter essere investito da questo Ruach HaKodesh, allora non si chiedeva, non si poteva chiedere, era vietato chiedere in una situazione così. Ora la Mishnah continua e dice, inoltre, riguardo questi Urim Vetumim, chi poteva chiedere? Veinan nishalim behen la idiot. Idiot di nuovo è la persona normale, che non ha una funzione, un ruolo particolare nei confronti di tutto il popolo. Ma idiot è il significativo di italiano, idiot? No. Idiot. Idiot. Cioè persone normali, comuni? Sì, non possono fare domande al... A queste che... E non si fanno domande per loro. Certo. Non è una domanda per la persona evidente, specifica. Per il popolo ebraico, sì. Adesso la Mishnah lo sta dicendo. Sì, sì. E là solamente che tipo di domande si rivolgono all'Urim Vetumim? E là la Melech, solamente il re, oppure le Bet Din, per Bet Din, per corte, si intende la corte grande, Bet Din Agadol, cioè quello che si è poi chiamato Sanedrin, Sinedrio, Ule Mi Shetzorech Hatzibur Bo, e per colui che rappresenta un'esigenza di tutto il Sibur, di tutto il pubblico. Ok? Come dicevamo prima. Perché sulla Torah è scritto Velifnei Elazar Kohen Yamod, dopo che Elazar ha preso il posto di Aaron, e quindi era lui Kohen Gadol, quindi parliamo di Elazar come Kohen Gadol, che vale per altri Kohanim Gadolim pure, altri sommi sacerdoti, c'è scritto che potranno chiedere a lui Ben Mishpat Aurim, con queste luci, no? Attraverso questo sistema, al piv Yetzu e al piv Yavou, hu vechol bnei Israeli tov vechol haedah. Secondo la sua parola verranno e usciranno ed entreranno, come dire andranno in guerra o torneranno, eccetera, o non andranno. Lui e tutta la congrega dei Bnei Israel. In altre parole, il chiedere, consultare gli Urim e Tumim è per una cosa che è legata a tutto il pubblico, non per questioni private o di gruppi specifici. Solo altri. Era quell'originale nell'epoca del deserto, non è mai cambiato mentre i vestiti. No, non è detto, non lo so. Tu hai visto che era quello No, originale? No, chiedo, sto no. chiedendo anch'io. Non mi ricordo. Comunque dicevi, sul pettorale c'erano i nomi delle tribù, Non dei c'è, no, patriarchi. questo come? Sul pettorale, non ho capito male, c'erano i Bastava nomi cercare. Sul delle pettorale tribù, c'erano i nomi delle tribù, dei con poi la patriarchi. scritta Shivtei Yudkei, le tribù del Signore, Ah, e i nomi ok. I Abraham, nomi Isacco e dei Jacob. patriarchi. Sì. Ok? Comunque era come un computer questa pettorale, Con tipo computer. Enigma. Ora possiamo iniziare il prossimo capitolo della Mishnah di Yomah, che è l'ottavo capitolo. Scusa, prima che vai avanti, Sì. no? Una cosa che mi è venuta in mente prima che ti spiegavi. Tu hai detto che queste vesti erano formate da questi colori, lana, intrecciato, lino, cose, no? Però la Torah ci vieta di indossare lino e lana insieme. Esatto, quello. Ah, sì, ho visto che ti sei Sì, aperto le orecchie anche quando abbiamo parlato di lino e lana. La esatto. Torah vieta lino e lana e la Torah richiede lino e lana nelle vesti dei Coanim. Anche Ah, forse per questo allora. secondo alcuni è proprio per questo, Ah. che è solo No, proprio perché è destinati solo solo. esclusivo per le vesti dei Coanim. Io Come? penso che i fili, quello che vieta la Torah, è mischiare un filo con un altro. Invece là, ogni filo è a se No, lì stesso. era mischiato tutto, Mischiato tutto insieme. tutto No, insieme, sì. erano tessuti insieme. Poi un'altra domanda, Sì? ho capito. Che c'è scritto kutonet. Sì, la tunica, ktonet. Kutonet viene dalla parola ebraica kutna, che sarebbe cotone. E è scritto che era di lino. Non sono convinto che il senso originale della parola, Kutonet si dice sì, in però non si ebraico sapeva. moderno si dice così. Viene dalla parola Però kutna. cosa vuol dire Tzemer Geffen? Semer Geffen. Geffen sarebbe Tzemer cioè Geffen. kutna, allora anche Geffen. Tzemer Geffen è cotone. Non sono esperto di ebraico moderno, ma credo che il senso kutna come cotone è ebraico moderno, non è ebraico antico. Si diceva Tzemer Geffen per dire cotone. Sì, c'è mal. Una domanda Eh? di carattere Un'altra più domanda, prego. in questo momento il sommo sacerdote c'è un momento in cui ha questa possibilità, è diciamo un modo Parliamo figurato, degli Urim e Tumim, sì, un ok? momento di modo figurato di un Investitura divina. indurimento, insomma di passaggio, nel senso che è il tramite Sì, per le sì, sì, sì. risposte così particolari, eccetera, eccetera. Ma non sbaglio o nel tempo ci sono stati momenti in cui i sommi sacerdoti non sempre erano, non so, erano sentito. Abbiamo detto, se il Cohen non era in grado di essere Non investito si con la chiedeva Ruach per niente in HaKodesh, era vietato quell'occasione. chiederglielo. Ma chi, cioè, chi è che Chi lo poteva sapere? decideva? Chi poteva sapere se no, il livello di spiritualità raggiunto o di concentrazione in quel momento, Allora, perché in realtà di non è. Co possibilità del. Gli altri come facevano a saperlo se non sì, ho interessati? capito. Diciamo così, il Kohen Gadol non era una questione di solo una sua decisione. Era una decisione probabilmente in mano al Beit Din HaGadol. Vuol dire, un profeta, tu dici giustamente, non puoi sapere i pensieri di una persona o il livello interno di una persona. Sì, è vero, ma ci sono dei criteri. Ci sono dei Sempre sommo. criteri e Se noi vediamo uno che dice io sono un profeta e poi vediamo cosa fa la mattina o la sera e che no, cose che non sono idonee a un alto livello di spiritualità, allora diciamo no, non sei un profeta. Cioè il popolo capisce. Il concetto di Ruach HaKodesh può essere che è simile, cioè vuol dire secondo me poteva essere abbastanza evidente se una persona era anche potenzialmente legata a questo tipo di livello spirituale. Quindi non è che la persona qualunque, che però nasconde qualche livello spirituale importante, sì, può accadere anche questo, ma in quel caso non vorrà fare la domanda perché non vorrà farlo sapere. No, però invece in casi normali non era solo una questione dei pensieri della persona, ma di tutta la persona, di tutto il suo modo di comportarsi. E Però non si effettivamente potevano non fare domande se si intuiva qualcosa del genere sulla non persona, era permesso fare le non, domande. appunto, non era permesso, però aveva sempre un ruolo rilevante nella funzione a livello, per Era il tutto il punto d'oro. popolo, appunto, aveva sempre una funzione, un ruolo Allora, come ho sostanziale, detto prima, anche se non dava risposta. come ho detto prima, nel secondo Beit HaMikdash non c'erano gli Urim Vetumim. Ah, era questo che era fino al primo tempio. Ok? Allora vuol dire Quindi c'era sempre il ruolo del Kohen Gadol. Non da questo dipende il ruolo di Kohen Gadol. Il ruolo di Kohen Gadol, cioè la sua funzione nello specifico, dipende da, tra le altre cose, il fatto di essere vestito con questi 8 indumenti barra elementi. Non dipende dalla presenza o non presenza dell'Urim Betumim. Allora, anche il Kohen Gadol, che non è all'altezza di quella cosa, diciamo anche nel primo tempio dove c'era potenzialmente la la possibilità. possibilità, ma non era all'altezza, era comunque un Kohen Gadol valido a livello Per tecnico di tutto quello Halakha che era la responsabilità e del per tutto ciò che rispetto. riguarda il funzionamento la funzione e il ruolo del Kohen Gadol Sì. all'interno della Avodah, il servizio del Beit HaMikdash. Una Torah. buona osservazione. Grazie. Ok, allora l'ultimo capitolo, fino a qui noi abbiamo parlato soprattutto della funzione che avveniva nel Beit HaMikdash durante il giorno di Kippur e riguardo i Kohanim e in particolare il Kohen Gadol e così via. A questo punto, nell'ultimo capitolo, affrontiamo questioni di Kippur che riguardano tutti noi e anche quando non c'è il Beit HaMikdash e il comportamento riguardo nei confronti del giorno Una di Kippur. domanda, un Prego, minuto. signor Piediveroli, domanda. Dica. Quanto fu istituito il Kippur? Il Kippur fu istituito nel momento in cui abbiamo ricevuto la Torah. Non dico come periodo. Tra le 613 mitzvot della Torah c'è quella di osservare il Kippur. Sì, ma Il dico periodo era il come Monte tempo. Sinai. Quando Quindi. siamo usciti dall'Egitto, più di 3.300 anni fa, e dopo un mese, dopo un po' più di un mese abbiamo ricevuto la Torah, e sulla Torah c'è anche questa mitzvah di osservare il giorno di Kippur, come lo Shabbat, come il Kasher, come tutte le altre mitzvot. Sono venuti dopo che Dopo che siamo usciti dall'Egitto. Hashem ha dato le tavole. Prima le tavole e poi Mosè diciamo, ha suddiviso e è andato avanti. Ok, ora, questo capitolo parlerà del comportamento durante il Kippur e riguardo comportamenti e atteggiamenti di Teshuvah, di ritorno verso Hashem, di Kapara, di espiazione, che questo è il punto del giorno di Kippur Kapara. Dice la Mishnah, prima Mishnah dell'ottavo capitolo di Yomah. Yom HaKippurim, il giorno di Kippur, è un giorno in cui assur è vietato ba'achilah, è vietato mangiare, ubishtiyah è vietato bere, ubirechitza è vietato lavarsi con l'acqua, ubessichah è vietato ungersi con olio o simile, ubinilata sandal è vietato neilata sandal, è vietato calzare una scarpa o un sandalo di pelle, ube tashmish amita, ed è vietato il rapporto coniugale. Ora la Mishnah dice, prima di tutto, tutte queste cose sono in qualche maniera incluse in quello che la Torah chiama afflizione. Ve innitem et nafshotechem, e vi affliggerete durante il giorno di Kippur. E nel trattato di Yomah, nella versione del Talmud, qui stiamo studiando la Mishnah, ma poi c'è tutta la Gemara che analizza e approfondisce e porta tutte le fonti, si spiega esattamente come si arriva a questi cinque divieti che sono legati all'unico divieto di innui, afflizione della propria persona durante il periodo di 24 ore o poco più di Kippur. Ok? Ora, la Mishnah dice, esiste qualche eccezione per ciò che riguarda questi divieti che abbiamo detto, e cioè, Vehamelech, nel caso di un re di Am Israel, Vehakalla, nel caso di una sposa, cioè una donna che si è sposata da entro 7 giorni passati, entro 30 giorni da quando si è sposata, si chiama Kalah per ciò che riguarda i fini di questa halakha qui, mutarim irchatzu et penehem, lavano sì il volto la mattina di Kippur. Noi abbiamo detto che non ci si lava il Kippur, invece il Melech, il re, è una Kalah che si è appena sposata, entro i primi 30 giorni, invece sono delle eccezioni. Solo per lavarsi. Per lavarsi il volto, lavarsi la faccia, perché il Melech, il re, deve essere visto nella sua bellezza, come scritto nel profeta Melech Biyofio, Ishayahu dice, Techezena Enecha, c'è un'allusione a questo, che il re va visto nella sua giusta diciamo, forma fisica, anche la bellezza del re, e la Kalah anche per mantenere, diciamo, quella bellezza, per creare il fascino e l'armonia nella casa. Chaya è una parola che troviamo alla parashah di Shemot. Ki chayot henna beterem tavo alehenna mialedet vialadu. Chaya può voler dire la partoriente, ma anche, e in questo caso, l'ostetrica che aiuta la partoriente. Ok? Quindi Hachaya, l'ostetrica, tin oleta sandal, si metta sì le scarpe normali per non essere limitata nei suoi movimenti. Ovviamente parliamo non di chi potrebbe essere ostetrica, ma di chi deve andare da una partoriente. Nel giorno di Kippur, allora non si limita ad andare a cercare le scarpe da ginnastica, mette le scarpe normali per essere più comoda e sicura di quello che sta facendo. Questo però, divrei Rabbi Eliezer, quanto abbiamo detto riguardo il re e la Kalah e la Chaya, l'ostetrica, è un'opinione di Rabbi Eliezer, grande maestro Rabbi Eliezer, che si chiama Rabbi Eliezer Hagadol, il grande. Ma Vachachamim, gli altri maestri, Osrin, i maestri invece, gli altri maestri non sono d'accordo, Osrin vietano tutte queste tre cose, il Melech, la Kalah e la Chaya. Ci sono eccezioni per, loro, esattamente. La Halakha finale però segue l'opinione di Rabbi Eliezer. Normalmente si seguono la maggioranza, e qui la Gemara arriva alla conclusione invece che si segue Rabbi Eliezer. E la scarpa della Chaya è anche per il freddo. Scusami. Sì. Scusami te, io ho detto che la Chaya è l'ostetrica, ma alcuni commentano che invece è riferito, come nella Parashah, alla partoriente stessa. Ok? E il calzare la scarpa normale è per anche la sua comodità e il freddo, il non sentirsi in difficoltà nel momento in cui si trova in un momento fragile, cioè deve partorire. Vale questa precisazione o si aggiunge all'ostetrica? Tutti e due. Vale, c'è chi spiega così, c'è chi spiega così. È più allora, logico l'ostetrica. Dimmi, Leonardo. Tutto pensa tanto. Domanda? Leonardo. Ok. Allora, Mishnah numero 2, Mishnah Bet. La nostra Mishnah spiegherà Qual è il volume di cibo o di bevanda? Se uno mangiasse o bevesse il giorno di Kippur, rientrerebbe nella trasgressione del divieto di non mangiare e bere di Kippur. Vuol dire, se uno beve una lacrima, non rientra nel divieto. C'è un volume minimo perché la persona sia considerata, tra virgolette, colpevole, chayav, di aver trasgredito le leggi del giorno di Kippur. Quali sono questi volumi? Contro la sua volontà. Cioè no, quando... no, non stiamo parlando adesso contro la volontà, stiamo parlando normale. Ok? Qual è la quantità? Auchel biyom kippurim. Se uno dovesse mangiare auchel durante il giorno di Kippur, che kotevet hagasa, un volume che corrisponde alla misura, al volume di kotevet. Vedete cosa è kotevet? Kotevet è un dattero, ma un dattero hagasa, un grande dattero. Ah, il grande? Sì. Chi mangia qualsiasi cibo, però che corrisponde a questo volume, che poi successivamente si quantifica anche quanto è questo volume in grammi, eccetera. Kamoha uke garinata. E bisogna considerare in questo volume sia il dattero che l'osso, il seme, ok? Che è poco più, è poco meno del volume alachico che si chiama kabeza, che corrisponde al volume di un uovo, ed è più quindi del volume alachico più comune che kazait, che corrisponde all'oliva. L'oliva. Beh, deve essere un dattero enorme. Perché? Se non un uovo. No, è meno di un uovo. È come un'oliva. È meno di un uovo e più di un'oliva. Meno di un uovo. Vehashotè, e per ciò che riguarda il bere, i liquidi. Chi beve kimelologmav, per riempire le guance, cioè un sorseggiare, prende un sorso che può riempire tutta la sua bocca, melologmav, che questo è il volume minimo che si richiede anche per il kiddush, sì, che corrisponde al famoso revi'it, quei famosi 86 centilitri, meno di un rivit, chayav vuol dire è colpevole, cioè rientra nel divieto. Questi sono i volumi che rientrano nel divieto, che vuol dire anche mangiare o bere di meno di questo è vietato di Kippur, ma non c'è il karet, non c'è la punizione che la Torah dice chi mangia o beve di Kippur. Il chayav, l'essere considerato colpevole, c'è solo se si raggiungono questi volumi e in una volta, poi lo vedremo, non che prima mangia un po' e poi un altro insieme diventa kotevet, non rientra ancora. Però c'è anche un tempo tra uno e l'altro che adesso vedremo cosa vuol dire. Questo è valido se la persona lo fa appositamente e chayav, perché vuole mangiare di Kippur. Se invece... Sì. Questo dice intenzione, lo fa volutamente. Esatto. Se invece lo fa beshogeg, per errore non vuol dire perché qualcuno con una... te l'ha messo in bocca. Per errore vuol dire o che ti sei dimenticato che è Kippur, o che pensavi che il volume era meno. Senza... Non è proprio buona fede, però... Insomma, non volendo... È beshogeg. Buona fede non c'entra. Non c'entra. No, insomma, volevo dire senza intenzione. Distrattamente. Senza intenzione, diciamo, di trasgredire. Ok, perché definisco così? Perché mezid, quello che fa appositamente... possiamo dire con l'intenzione di trasgredire. So che è Kippur, so che non si può mangiare a Kippur, so qual è la punizione, so cos'è tutto e lo faccio. Questo è Mesid. Lì ci sarebbe la punizione del Karet, che è una cosa spirituale, ne abbiamo già parlato. Invece Beshogeg, oppure facciamo prima l'altro estremo, si chiama Beones. Ones vuol dire per forza maggiore. Una cosa estrema, hai aperto la bocca e un cibo volante ti è entrato in bocca, per dire, no? Qui non c'è proprio il tuo input, sì. Di questo non stiamo parlando adesso, stiamo parlando shogeg. Shogeg vuol dire l'hai fatto volutamente, ma con un altro tipo di intenzione. Per esempio, Ti sei dimenticato che è Kippur, hai preso il caffè. Ti sei dimenticato. Non volevi mangiare di bere di Kippur, però volevi bere. Sì, sì. È diverso quindi dalla forza maggiore. Per questo dico, volevi bere, però ti sei dimenticato che è Kippur. È un esempio di Shogeg. Ok? Nel caso del Shogeg, c'è un certo livello di colpevolezza, quindi non c'è il karet, ma quando c'è il Bet HaMikdash, Hayav Hatat, deve portare un sacrificio di espiazione. Quindi c'è un certo livello, diciamo così, di macchia, di peccato, se vogliamo. Ok? Per questo voglio sottolineare Shogeg e Ones. Come una macchia la deve lavare. Qui non c'è scritto niente di uno che è malato. Aspetta, aspetta, c'è scritto tutto. Con calma vediamo tutto. Ora, normalmente nella Torah i volumi che sono legati al bere e al mangiare non sono questi. Per ciò che riguarda un minimo che bisogna bere o un minimo che bisogna mangiare, eccetera. Normalmente si parla di un volume per il cibo che corrisponde all'olivo e il volume per il bere che corrisponde al revi'it, quello che dicevo prima. Qui invece sono volumi diversi. Perché? Perché visto che la Torah dice riguardo Kippur ve'initem et nafshotechem, cioè questo concetto di afflizione, allora i maestri spiegano che quando la persona si affligge nel mangiare, cioè non mangia, e quando invece quanto ci vuole che non si senta afflitto, quanto cibo ci vuole per non sentirsi afflitto, non basta il kazait, non basta il volume che normalmente si usa per il cibo che corrisponde all'olivo, invece serve un volume maggiore che è simile a questo qui che abbiamo detto del dattero grande. E quindi finché non mangia questo volume qui, non rientra nel concetto di colpevolezza di non aver fatto l'afflizione in noi. Uguale per il volume del liquido, che abbiamo detto che già invece che è meno rispetto al revit, il riempire la guancia è un po' meno rispetto al revit, già quello sarebbe sufficiente per far sì che la persona non si senta afflitta. Infatti quando uno è a digiuno, si calma più velocemente con un po' di liquido che con cibo, anche se un po' di più di cibo, ma un po' di liquido già lo calma, lo fa stare meglio. Ecco perché queste regole di cibo e di bevande, cioè relativamente al loro volume, sono diverse durante Kippur che per qualsiasi altra cosa dove è necessario indicare un volume specifico di cibo o bevanda nella Torah, nell'Alaha. Ok? Perché qui stiamo parlando di una cosa specifica di Kippur che è in noi, afflizione. E i Chachamim definiscono cosa vuol dire fino a quando una persona si sente afflitta e fin quando non si sente più afflitta. Una domanda, prego. Prima c'era così. Dopo. Prego, prego. Oggi la medicina moderna dice che non fa bene fare un digiuno completo, totale, per 24 ore. Ok. Può essere che domani cambiano idea. No. Lo dico sul serio. Può certo, danneggiare il corpo, dicono sì. Così. Sì, sì, sì, sì. Ma la Torah dice una cosa. Ok, sentiamo. No, voglio dire, la Torah non ne parla nemmeno di questo fatto qua. Non parla nemmeno di quale fatto? Del fatto che non mangiare niente, questo inui. La Torah non è un libro di medicina. È dannoso alla fine. È dannoso o no? Allora, cosa vuol dire inui? In noi la tortura. Afflizione. Infatti. Allora vuol dire che è dannoso. Come fa un'afflizione ad essere positiva? Capisco che è dannoso, però agli effetti dopo il Kippur può diventare, come si chiama, pericoloso per la salute. Oh, allora, qui entriamo in una questione che affronteremo un po' più avanti nella Mishnah, e cioè come ci si comporta in caso di pericolo. Tu fai una domanda in realtà più generale, che tu dici che la medicina oggi dice che il fare un digiuno per un periodo di una giornata intera è una cosa che danneggia la salute della persona. Ok. Può danneggiare. Io non sono un medico, può danneggiare, sì, lo so. Io non sono un medico, però so che esistono anche delle opinioni moderne, sempre, che ritengono che invece è un beneficio per il corpo ogni tanto fare un digiuno. Una volta a settimana. Forse però non nell'estremo di non bere niente, non mangiare niente, però ci sono opinioni che sostengono così. Allora, nella comunità scientifica le cose non sono mai così, diciamo, precise e nette, no? Perché io scherzavo prima che tu dicevi oggi la medicina dice così, vabbè, domani dirà un'altra cosa, però è una battuta, però è anche c'è una certa verità in questo. È vero. Per noi quello che la Torah dice è eterno ed è valido sempre ed è assoluto. Quindi la visione ebraica della cosa, che se la Torah dice che un giorno all'anno, la Torah parla solo di un giorno all'anno, che non si mangia e non si beve, la Torah non ti dice una cosa che ti danneggia. Ma la stessa Torah ti dice che chi è in condizioni che è evidente che la cosa lo danneggia, perché sta male, perché è debole, eccetera, come vedremo un pochino più avanti in questo capitolo, ovviamente ci sono delle regole che riguardano chi non è nelle condizioni di fare il digiuno. Andiamo avanti. La Mishnah continua e dice: Kol ha'ochalim mitzarfim le kakotevet, ogni cibo si unisce per raggiungere il volume del famoso dattero, cioè non è che deve mangiare un cibo solo che corrisponde a quello, ma anche se mangia un po' un volume di un cibo, un altro volume di un altro cibo, ma insieme rientra in questo volume, è sempre questa colpevolezza. Dei semi di sesame. Perché? Che può mangiare? Briciole, non so, briciole. Tante cose. Allora, questo però è se non passa un determinato periodo di tempo tra il mangiare una cosa e il mangiare l'altra. Cioè se lui mangia metà dattero, diciamo così, e poi passa un determinato tempo e rimangia un'altra cosa e insieme rientra nel volume, non si uniscono le due cose. Solo se sono state mangiate entro un determinato numero di minuti. Possiamo dire circa 9 minuti, se vogliamo, tra 7 e 9, 10, dipende secondo le opinioni. Questo per quanto riguarda i cibi, anche le bevande, vechola mashkim, e anche tutti i tipi di bevande, si uniscono per rientrare nel volume di melol ugmav, non deve essere in una boccata, in un sorso. Aochel veashote enan mitzarfin, però, qual è l'eccezione a questa regola? Il cibo e il liquido non si uniscono. Cioè se tu mangi mezzo volume di cibo con mezzo volume di liquido e insieme non rientra nel volume per rientrare nella vera trasgressione, tra virgolette. Diventa una seuda. Una seuda. Cioè mezzo di uno, mezzo di liquido, mezzo di altro, no. Insieme non fanno... Se insieme è fanno pattura, esente, no. È esente. Dal... No. Non che gli è permesso fare, no, ma no, è esente. No, non tocca... Non va considerata la quantità. No, esattamente. Ok, signori, concludiamo qui la lezione di oggi. Siamo arrivati alla terza Mishnah del ottavo capitolo di Yomah.